Figlia, Arcippo ti chiede, egli innocente si dice. Tu, innocente, tu non fosti che cinto dall'ombre della notte, ma giusti noi, perché non fulminate, mi facesti tua sposa, a mia vergogna, appena. Non fosti tu che mi dicesti, Nico, che ritornando avresti al genitore questo culto in me ho fatto palese. Ed ora temeronio ritorni all'altra sposa e con la moglie e ti dice innocente. Confuso il traditore. Non voglio il padre, ma il giudice. E se tu dei falli miei senti pietà di alcuna, ingiusto sei.